Sconvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sono entrato ottavo in finale, mi sa che avevo 10 punti di distacco dal russo. E queste finali col back to zero, col tornare a zero che mi hanno fregato in questi 3 anni, oggi sono state la mia fortuna. Sulla luna! Siamo nelle mani dei giudici. Fuori questi 9 e mezzo. Premiamo questa atleta. 81! Sì! 81! È il record! Sì, è il record! Prima volta sopra i 370. Grande, grande Tania. Grazie per questa ultima emozione. Grazie per questa ultima emozione. Oggi è proprio una giornata incredibile, io non pensavo addirittura di tornare a casa con 2 medaglie, ero già così contenta dopo il sincro, oggi volevo veramente solo godermela. Spettacolo! Allora, Valeria Bernardi in regia, Giovanni Melchiori, Alvise Falzoni in redazione, Giovanni Capuano qui con me e il primo che chiama oggi, che è Ferragosto, vince... Che lo mandiamo in onda. La grigliata di Ferragosto di Giovanni Capuano, sì, sì, sì, presa in un noto ristorante scozzese, esatto, che ha il nome vagamente scozzese, oppure vince una bambolina in grandezza naturale di Leo Turrini, che sentiremo poi stasera in Tutti Convocati alle Olimpiadi dalle 18 alle 20. Però adesso ti sono mancato, Giovanni? Ma sì, mi sei mancato, anche se in realtà ieri è andata alla grandissima. Ma no, lo mentre, so. Mentre tu eri al mare, in montagna, non so dove. Raccontami cosa è successo. Noi ci siamo fatti venire i brividi, perché l'oro di Campriani l'abbiamo raccontato in diretta assoluta, proprio da Rio de Janeiro, ed è stato un grandissimo momento. E siamo ancora qui noi a ragionare anche stamattina, riunire redazione, insomma, su che cosa si può provare a perdere una medaglia d'oro per 7 mm, perché il russo ha sbagliato di 7 mm e sembra che abbia fatto schifo. 7 mm da 50 metri. Ora provate voi, mentre fate la grigliata, metri a capire anche soltanto che cosa siano 7 mm a destra o a sinistra. Ecco, quella roba lì è la differenza tra l'oro e l'argento. Sì, oppure diteci pure che i russi a queste Olimpiadi non dovevano esserci. No, dovevano esserci per vivere la giornata di potevano non esserci. Kamensky. 800 24 00 24 è il numero verde. Oppure messaggio SMS WhatsApp 349-238-6666. Già lanciamo un temone per la puntata di Tutti Convocati alle Olimpiadi, i vostri WhatsApp sonori. Cosa facciamo? Dichiarazioni d'amore ad atleti olimpici? Sì, perché ieri c'è stata questa scena meravigliosa del cinese che ha chiesto alla tuffatrice cinese Leonardo. Ha ricordato Leonardo e Anna Billò in diretta TV. Mi vuoi sposare? Ma ne parliamo poi a casa. Ma anche ieri la cinese, secondo me, ci ha pensato un po'. Prima di... Io a un certo punto ho tremato. Sì, mi sono immedesimato in quel povero ragazzo. Sì, o anche quella povera ragazza. Pensa se le avesse risposto, ma guarda, ci devo pensare. Sarebbe stato meraviglioso, ma intanto noi dobbiamo capire se Belen è più Borriello o più Iannone. No, perché adesso, a parte gli scherzi, ieri la doppietta Ducati a Zeltweg è stata la... insieme alle medaglie italiane, alle Olimpiadi, alla Premier League è cominciata, però io la metto davanti a tutti la doppietta Ducati a Zeltweg. c'entra una doppietta con due italiani, due Andrea. Giannone c'è davanti ad Andrea Dovizioso, davanti a Jorge Lorenzo e a Valentino Rossi in quarta posizione. Giannone c'è. In griglia di partenza ero molto indeciso, nervoso, e alla fine ho detto Andrea, cioè, believe yourself. E quindi ho chiuso gli occhi, mi sono abbracciato con il mio ingegnere di pista Marco, che è stato veramente grandissimo questo weekend, e abbiamo fatto questa scelta, ci siamo assunti la responsabilità contro, credo, abbastanza persone. Però abbiamo avuto ragione. Sicuramente me la godo, mi godo sempre ogni momento della vita, anche quelli brutti, perché mi fanno sorridere e mi insegnano sempre qualcosa. Quindi credo che noi abbiamo fatto il lavoro tutti quanti di squadra, e peccato che l'anno prossimo ci separiamo con la Ducati, perché eravamo arrivati veramente a un livello molto, molto importante. 8-0-0-24, dunque Iannone vince davanti a Dovizioso, terzo Lorenzo, quarto Rossi, questo è l'ordine d'arrivo a Zeltweg, quinto Marc Marquez che continua a guidare ovviamente la classifica mondiale. Io ci sono ragazzi, scrive Antonio, 34 Rovigo, vinco qualcosa? Sì, vinci un giro in moto con Roberto Ungaro, che è il premio più ambito. Ciao Roberto. Ciao Carlo, ciao Giovanni. Buon Ferragosto. Allora, dove sei? Dove sei? Dove sei? Lo devo dire, sì. Oltre po' grigliata. Altro tema da lanciare oggi. Raccontateci la vostra grigliata di Ferragosto. Mandateci i vostri WhatsApp audio, 349-238-6666. L'ho già raccontata al ristorante scozzese qua sotto. Questa sera li mandiamo in onda, Anzi, questa sera, poi dalle 18 alle 20, anche con l'aiuto di Leo Turrini, noto gastronomo. Emiliano. Noi faremo il podio delle vostre grigliate, perché veramente Noi siamo qui con tutti gli altri. Invece di parlare di Usain Bolt, ma lascia stare di Usain Tania Bolt. Cagnotto, di Campriani, facciamo il podio delle grigliate. Siamo messi bene. Roberto! Allora, Belen. Iannone o Boriello? No, perché qui credo che il punto della situazione, cioè il noccio della situazione sia questo. Beh, lei è vincente nella comunicazione, in questo momento è andata lì per vedere, per fare notizia, poi ha portato anche fortuna, Andrea ha costruito questa cosa. Andrea in realtà si maschera dietro l'amicizia del fratello, lui dice sì, sono amico sì, del fratello. L'ho già sentito, l'hai già raccontata questa favoletta. Me lo dissi già che due o se non tre anni fa, quando l'ho intervistato per la rivista, lui come obiettivo nella vista era fuori a microfono spento e disse io voglio arrivare a lei. Io ho un solo pensiero nella mia testa, è lei, e alla fine ci è arrivato, tatuato e tatuato, quindi è quello più calciatore di tutti, secondo me è giustissimo come persona, come atleta. Parte scherzi, grande amicizia, e lei ha portato bene, faceva ridere quando si schermiva dalle inquadrature e dalla telecamera, come se lei non fosse una professionista di quel teleobiettivo. Tutto costruito, ma bravi perché fa notizia e ci vuole anche questo. Ah, come no, ma ci vogliono anche... Ci vogliono anche queste dichiarazioni di Iannone che vi faccio sentire. Però lasciami dire che Belen ha portato un po' di fortuna stavolta. Belen, tutti i ragazzi che sono venuti hanno portato sicuramente molta fortuna. Questo è un grande problema però. Perché sono tanti. Perché sono tanti. E poi come si dice, quando una persona ha un gran culo alla fine, no? Amen. Roberto, parliamo della doppietta Ducati, va. È venuta fuori la sua ignoranza, perché amen. È così, ignoranza positiva, ma è così, è inutile negarlo. Senti, non ci sono le Olimpiadi della moto, ma ieri è stata veramente una grande Olimpiade, perché la notizia è che la Rossa finalmente, dopo 6 anni e 101 gare, è riuscita a vincere. Doveva farlo già prima quest'anno, ma la sfortuna, l'esuberanza di quel pilota chiamato Iannone lo ha impedito. Però Gigi Dall'Igna, l'uomo chiamato dalla nuova gestione Audi, ha ricostruito su un foglio bianco una moto che curva, perché la Ducati è sempre andata fortissimo, più forte delle altre. Il problema è che non curvava, era un toro imbizzarrito. Lui l'ha ricostruita da un foglio bianco, le ha fatto un telaio come si deve, l'ha giapponesizzata, tra virgolette, e adesso è una moto che va forte, curva, e non ce n'è per nessuno. Lo si sapeva perché a luglio aveva dato un abisso, ieri hanno recuperato perché la Yamaha non era così lontana, la Honda è stata sconfitta, però Marquez alla fine ha tenuto, perché ha perso solo 5 punti, certo, nei confronti di Lorenzo, certo, e 2 soli rispetto a Valentino. Quindi alla fine vedi che il ragioniere viene fuori, il campionato lo mette al sicuro. Però la notizia è la Ducati, è un bene che sia, che torni a vincere, ci serve per tutto l'ambiente, per noi, per l'Italia, perché sappiamo fare le moto, le abbiamo sempre sapute fare, e questa è la dimostrazione. C'era l'incognita gomma, ma l'hanno gestita bene. È vero che Iannone ha fatto una scelta coraggiosa, gomma morbida, ma io ti assicuro che se avesse avuto la stessa gomma di Dovizioso o avrebbe vinto o si sarebbe steso, perché lui è così, è ignorante, mette la pelle al sole e ci avrebbe provato. Mentre invece Andrea avrebbe vinto Lorenzo, in pratica. No, o si sarebbe steso Iannone sperando di non mettere giù anche Dovizioso, però il terzo incomodo sarebbe stato pronto, perché è sempre così, quindi i due litiganti se la fanno tra di loro, c'è sempre dietro il terzo che gode. Peccato per Valentino, perché non ha preso il podio, ci stava, ci aveva un po' illuso nelle prove, era andato veramente veloce, veramente forte, si era messo in mezzo alle due rosse, però poi la gara è un'altra cosa. Comunque non è arrivato lontanissimo, è segno che comunque Valentino c'è, il campionato non è chiusissimo. 43 punti, Lorenzo, può ancora succedere tutto, è risorto, altra notizia, quello è da dire, perché Orge dopo tre gare in crisi, finalmente il caldo l'ha fatto resuscitare. E era contento di vedere una moto rossa così lontana, l'ha vista sempre da dietro, però c'è da dire che ha guidato, si è esposto, coraggioso, bellissimo l'inizio di gara, tanti sorpassi, belle inquadrature, vuoi anche la pista, però è stata veramente una gara carica di tensione, sì, bellissimo, sì, spettacolo da vedere. Siete d'accordo? Sì. Io ho una domanda per Giovanni Capuano, per The Voice Roberto Ungaro e per tutti gli ascoltatori 800240024. Questo della Ducati è un colpo di fulmine all'improvviso e poi si tornerà a parlare di Yamaha, di Honda, eccetera, o può essere una storia vera? Io credo che nel breve periodo sì, cioè noi continueremo poi a raccontare quest'anno della Honda e della Yamaha, ma sì, però io credo che poi dopo aver parlato per un quarto d'ora della Ducati e di tutto il resto, noi dobbiamo avere il coraggio di dire che ieri ha vinto Marquez. Beh, ma certo, perché quando tu entri in un weekend così sfigato, cadi, ti fai male, magari non puoi fare le prove, poi le fai fatica, hai la moto che non sta in strada e alla fine di fatto fai pari e patta con gli altri. Bravo. Vuol dire che è tutto fatto, è tutto scritto. Sono d'accordo col mio compagno di banco Voice. Sì, perché quando poi a fine anno vedremo che potrebbe essere lui, siamo sempre condizionati, non dobbiamo dire lo ha ricevuto in regalo. Se l'è costruito pian piano, tassello su tassello, da ragioniere. Ma i campionati si vincono anche così. E comunque quando può farlo, lo fa vedere chi è. Non dimentichiamo le gare che ha fatto Marquez. Lui è in grado di guidare e correre sopra i problemi. Pedrosa, per esempio, molto lontano. È andato meglio in gara che in prova. Perché in prova, a parte il grande botto, che ha messo in crisi, ha messo in dubbio anche la sicurezza di quella pista. Però nelle prove era sempre molto indietro. Poi in gara settimo, Dani Pedrosa. Però vedete dove è la onda. Quindi Marquez è lui che fa la differenza, però avete visto come era appeso un filo, quanto ha sbagliato. Ma infatti, secondo me, quest'anno è la prova di maturità di Marc Marquez, perché tutte le altre volte aveva vinto da dominatore assoluto e volendo sempre arrivare primo, volendo sempre arrivare davanti agli altri. Questo è un mondiale totalmente diverso di Marc Marquez ed è il simbolo di una maturità acquisita, pur essendo un ragazzino, un bambino dell'asilo ancora. Ha finito di fare il matto a Sepang l'anno scorso. Ha finito di fare il matto a Sepang l'anno scorso. Ma sai, io posso dare una lettura psicologica, tanto Ferragosto non ci ascolta veramente nessuno. Non è vero, non è vero, perché c'è sono che tutti io a grigliare, saluto Carlo e Loredana che sono grigliati sull'autostrada di ritorno da Savona, quindi c'è un sacco di gente che ci ascolta. Secondo me gli ha dato una grande lezione Valentino Rossi, che dopo essersela tenuta lì per un paio di mesi, alla vigilia nuova stagione, da vecchio, perché insomma Valentino ha più o meno la nostra età e quindi non è più giovanissimo, ha detto: vabbè ragazzi, adesso questo stiamo tranquilli, ragioniamo, facciamo andare la testa, è uno sport, non dobbiamo farci male, dobbiamo competere comunque cercando di mettere una pietra sopra. E secondo me gli ha insegnato qualcosa. Quest'anno Marquez fa il ragioniere, che non è da Marquez. È un punto in più. Cioè è un valore aggiunto in più, però ha finito di fare il matto a Sepang. Ho capito, ma è un valore aggiunto. Sì, no, è vero. Forse ha finito di fare il matto a Sepang. Maturare a 23 anni non è poca cosa. Costruire successi. Comunque, non dimentichiamoci, è andato a vincere a casa sua, perché ha vinto Spagna quest'anno e l'ha umiliato, l'ha veramente schiaffeggiato. Poi ha fatto degli errori che gli anni scorsi non faceva, perché non è rientrato quando pioveva, perché è caduto, e infatti lui stesso lo ammette, non può fare questi errori, trova in quella posizione perché ha sbagliato lui. Però il Valentino di quest'anno, ragazzi, chapeau, nessuno si aspettava un Valentino così competitivo, senza quegli errori sarebbe davanti anche lui, e non ha avuto quella parentesi buia che ha avuto il compagno di squadra Lorenzo. Tornando a Ducati, non è un fuoco di paglia, Carlo, perché no, la moto va veramente forte. Questo però lo scopriremo vivendo, Roby. A Brno, sì, Brno è un'altra pista, favorita sempre Yamaha, è sempre andata fortissimo, circuito ben diverso, più veloce, più guidato, asfalto diverso, staremo a vedere. Però se andiamo a analizzare dove sono anche le altre moto, alla fine Scott Redding, ottavo, poi Petrucci ha avuto dei problemi, contatti in gara, però undicesimo, Pirro, Wildcard undicesimo, cioè la moto c'è. Gisellini ha fatto veramente un grande lavoro. Questo è indiscutibile, ma già dall'anno scorso sì, si è capito che era cambiato il vento. Molto, poi... registro. Esatto. Però andava forte e basta. Adesso invece c'è detto un lavoro di regia, la moto è accorpata, cioè va forte ma in modo efficace e mette a terra la potenza bene e soprattutto curva. È una moto che, ripeto, si è giapponesizzata, virgolette. E quindi questo in vista della prestazione assoluta. E vuol dire che non è solo più un derby tra Yamaha e Honda, ma adesso c'è anche lei, bisogna guardare lei. Interessante Lorenzo l'anno prossimo con quella moto, anche se Giovanni ieri finalmente lo accennava, Ducati è un mondo a parte, quindi non è detto che un pilota nato e cresciuto su una giapponese passi di là sulla Ducati e vada subito forte. Guardiamo cosa ha fatto Valentino quando è andato in Ducati. Però era la Ducati senza... Era un'altra Ducati però. Altra Ducati. Era un'altra Ducati. Tante. È arrivato Gigi Dall'Igna e ha costruito una moto giapponese come schema. Era arrivato già prima il telaio, ma lui ha esasperato questa cosa e ha fatto una sorta di piccola Aprilia, che è la moto da corsa allo stato dell'arte. E lasciamo l'identità di ognuna, non voglio dire che... Però ha fatto veramente una macchina da corsa strepitosa. E questo è bene per noi, per l'Italia, per tutto, e per crederci. Poi due piloti italiani sono... ed è un bene anche per parlarne insieme. Senti, tutti a Brno! Tutti a Brno, facciamo tutti convocati da Brno, che è il gran premio più ambito da tutti gli inviati del moto mondiale. Da sempre la Repubblica Ceca, anzi Carlo, esatto. Se vuoi andare là, io guardo, anche a mio spese, se vogliamo andare là... No, offro volontà. No, ma saremo inviati di Radio 24 a Brno, andiamo a cena con Carletto Pernat e lascio alla vostra fantasia, alla vostra immaginazione la risposta a questa domanda. Perché Brno è il gran premio più ambito da tutti gli inviati del moto mondiale? Ciao Roberto! La cosa difficile là è riuscire a vedere il piano, perché poi ti dimentichi, passa in secondo piano, sei concentrato quando sei a casa. Ciao Roby, ciao Roberto Ungaro. Ciao Roberto Ungaro. Traffico nelle acque di Copacabana, dove stiamo osservando dagli schermi che abbiamo qui in studio, è iniziata la 10 km di fondo di nuoto e c'è un bel traffico. Nuotano uno sopra l'altro. C'è un gran bel traffico, mentre... No, ridendo scherzando, è una delle speranze di medaglie di oggi e noi siamo qui anche stasera dalle 18 alle 20 per raccontarvi le Olimpiadi di Rio de Janeiro. E avremo ospiti Usain Bolt, poi Tania Cagnotto, parleremo anche con Carl Lewis. Per discutere delle differenze. Di come è cambiata la velocità dagli anni 90 a oggi, esatto. Come sa bene Nicola Roggero, vero? Ciao Nicola. Ciao Nick. Buongiorno. Peraltro il personaggio da intervistare oggi sarebbe Van Niekerk, assolutamente. Che resterà nella Bravo, sì. Tra l'altro correndo in corsia numero 8, che è un po' come provare a battere il record di rigori segnati con le scarpe invertite. Sì, non so se questo paragone regga, ma è come correre una cronometro, cioè senza punti di riferimento degli avversari. Una curiosità, l'ultimo atleta che vinse dalla corsia 8 i 400 metri fu Eric Liddell, scozzese, che è stato poi immortalato in momenti di gloria, ed ecco perché lo so, perché ricordo appunto questa scena. In realtà non era corsia 8 perché erano 6 corsie all'epoca, comunque lui corse nella corsia più esterna, quindi era quasi 100 anni che un atleta non vince i 400 correndo nella corsia più esterna senza riferimenti con gli avversari. Nicola, invece di Bolt cosa ci dici? Cioè quali sensazioni hai provato? Quali emozioni hai provato da grandissimo esperto di atletica? Guarda, io credo che oramai abbiamo esaurito gli aggettivi, non so sì. se lo Zingarelli o lo Zienichelli ne troveranno altri. È un atleta che vince per la terza volta gli Olimpiadi sui 100 e già farlo due volte sarebbe stato un qualcosa di strepitoso. Senti, Nick, posso dirti una cosa per inciso? Ma tu, quando sì. lui ha detto sui 100 non sono poi così sicuro, ci hai creduto? Ci ha preso in giro, faceva la parte, scherzava, ballava con le ballerine del samba. Ma guarda, ieri parlavamo con Andrea Bongiovanni prima della sì. gara, che era uno dei fautori di questa tesi, e invece era convincente. Cioè, analizzando pezzo per pezzo quelle che sono oggi le caratteristiche di Bolt, i 100 erano il tallone d'Achille. Quindi diceva la verità. No, è vero che i 100 inciso. Sono il tallone d'Achille rispetto ai 200, dove ci sarà una vittoria per distacco, praticamente ai 200 si corre per sapere chi sono gli altri due occupanti del podio. E ho molto più creduto a Bolt, però, quando ha detto circa un mese fa in risposta a Gatlin, questa volta non ci sarà bisogno del photo finish sui 100, riferendosi a quanto era capitato a Pechino lo scorso anno. È un atleta che oramai vince la gara prima ancora di partire, perché è tale la sua forza, la sua personalità, il suo modo tra l'altro di vivere l'atletica, che gli altri avversari soppongono dal punto di vista proprio della personalità di fronte a lui. Ieri il sorpasso è venuto bene o male a 20 metri dall'arrivo, quindi per 80 metri ieri è stato in testa, ma non c'è stato un solo momento in cui si è dubitato della vittoria di Bolt. Che veramente sembrava uno che facesse una passeggiata di fronte agli altri che corrono. È una cosa impressionante. Sì, però se posso dire io un aggettivo, li abbiamo finiti, però io un aggettivo per la finale di questa notte lo metto nuovo, se applicato a Bolt, ed è normale. Io onestamente, come tanti, ho messo la sveglia, mi sono svegliato, a differenza di altre volte sono tornato a letto dopo senza aver avuto l'impressione, con addosso l'adrenalina, l'impressione di aver vissuto qualcosa di storico, al di là del fatto che era la terza volta consecutiva, mai nessuno c'era riuscito prima, ha vinto una gara normale. Cioè non ha acceso la luce, non ha acceso la luce. No, è proprio questa la grandezza di Bolt. Oramai parliamo di normalità in uno che fa 9,81, cioè un tempo che fino praticamente all'epoca pre-Bolt gli avrebbe consentito di vincere qualunque gara sui 100 metri. Il fatto che sia normale, cioè noi consideriamo normale l'impresa di uno che vince 100 metri facendo 9,81, dà proprio idea che questo ragazzo ha spostato in là, credo di una ventina d'anni, ma potrebbero essere anche 30, i confini di questo sport. Si ricomincerà a parlare di qualcuno e metterlo a paragone di Bolt, credo, intorno al 2040, occhio croce. È verissimo. La sensazione ieri era di un'impresa normale, infatti obiettivamente ieri tutti erano stupiti da Van Nicker, che dal suo 43,03. Bolt era quasi come una normale giornata in ufficio, come direbbero negli Stati Uniti. Sì, ma è finito qui? È finita qui la favola, la leggenda di Bolt? C'è ancora qualcosa da spostare, Nicola? Intanto arriverà a Londra l'anno prossimo per i mondiali, ed è già una bella notizia. E poi chissà che magari non venga ritirato fuori il progetto 400 metri. Bolt è uno che fa i 200 metri 19-19. È chiaro che c'è un accumulo di acido lattico diverso tra i 200 e i 400, però a questo punto sarebbe bellissimo per il prossimo quadriennio ipotizzare una sfida Bolt-Van Niekerk, perché Van Niekerk a sua volta è molto veloce su 100-200, è l'unico al mondo che ha corso i 100 sotto i 10 secondi, i 200 sotto i 20 e i 400 sotto i 44, nel suo caso potremmo quasi dire sotto i 43. Bolt, per il futuro lancio un'idea agli organizzatori dell'atletica, bella sfida Bolt Van Niekerk sui 400, sarebbe credo che non basterebbe uno stadio a 300.000 posti. No, sono d'accordo, sarebbe insomma Cassius Clay, Muhammad Ali contro dai, sarebbe una di quelle sfide lì, no? Anche senza andare a Kinshasa. Giovanni, ma noi abbiamo anche parlato di Nicola Ruggero anche per la Premier League, no? Sì, perché no, poi è troppo bello parlare con lui di atletica. No, ma è troppo bello parlare con lui di atletica, sai. La cosa più bella del posto che manca a Conte ancora, che secondo gioca me stasera nel tiene almeno per quanto ci riguarda, tiene il cartellone della prima giornata della Premier League, il debutto di Conte, che è emozionato, che non dorme, che ha problemi con la musica, che insomma che è bellissimo. La cosa più bella della prima giornata della Premier League l'ho letta sui giornali, e cioè che il Manchester United sta già per rinnovare il contratto a Ibrahimovic. Però pronti via, bam bam. È bastato un gol in una partita. Beh, beato Ibrahimovic, beato il suo manager, che mi sembra che sia stato il vero vincitore. Cioè si è presentato al lavoro e già... Esatto, beh, è bastata una partita per farsi rinnovare il contratto. Beh, due. Due. Ecco, due. Chissà se vincesse anche solo la Coppa di Lega, no? Cosa potrebbe succedere, senza andare a cose più importanti. Quindi è curioso. La cosa più bella invece di questa prima giornata, a mio parere, è stata la partita del Liverpool contro l'Arsenal. Ha contribuito ovviamente anche l'Arsenal, però il Liverpool ha dato una grande impressione. Chissà che non sia la volta buona per far tornare il titolo ad Anfield dopo 27 anni d'attesa. Ragazzi, vi chiedo una cosa a te, Nicola Roggero, a Giovanni Capuano e a tutti gli ascoltatori: 800 24 00 24, ma quando mandano via Wenger? A me, Wenger? Cioè, va bene tutto. Cioè, prima o poi anche queste meravigliose, lunghe storie d'amore possono trovare un epilogo, no? Allora, hai detto bene. La mia impressione è che il matrimonio tra Wenger e l'Arsenal sia come quello tra di due sposi che sono sposati da, non lo so, 25 anni, e si accorgono che è finita, ma nessuno di due ha il coraggio di dirlo all'altro. e quindi vanno avanti per inerzia. Perché in effetti negli ultimi anni, a parte un paio di FA Cup, che per carità sono rispettabilissime, non è arrivato nulla, ma soprattutto non è mai arrivata l'impressione che l'Arsenal fosse protagonista né in campionato né tanto bene in Champions League, e soprattutto non c'è sembra esserci più quel tocco magico di Wenger di andare a pescare talenti come aveva fatto invece nei primi 15 anni della sua avventura all'Arsenal. Però ecco, appunto, l'impressione è questa: due che si sono voluti così bene che nessuno di due ha il coraggio di ferire l'altro e dire guarda, faccio altro nella vita oppure ne cerco un altro, perché tra i due è chiusa. È così, Giovanni? È così, tra l'altro credo che sarà difficile, perché mi sembra che ormai l'Arsenal non ragioni più in termini di risultati sportivi. E di cosa, in termini di che cosa? Poteva ragionare nei termini del continuare a scoprire talenti, però ha ragione Nicola Ruggero quando dice che non riesce più a fare neanche questo. Sì, poi c'è tutto il progetto che c'è dietro l'Arsenal che per anni ha avuto l'alibi anche dei mancati successi con gli investimenti fatti per le nuove strutture, per il nuovo stadio, per tutto. Però evidentemente Wenger, insomma, e la parabola di Wenger all'Arsenal potrebbe considerarsi chiusa. La cosa più strana, secondo me, invece, e forse anche più deludente di questa prima giornata, è stato l'approccio di Guardiola. Contro il Sunderland ha vinto per caso, perché onestamente ha vinto davvero per caso, con autorete a un paio di minuti dalla fine, e ha detto che deve ancora un po' capire, imparare la Premier League, che per carità è legittimo, però per uno come lui, perfezionista, che anche in Germania si presentò, che sapeva tutto, sapeva anche la lingua, che lavora di fatto per il City da mesi, perché a Natale Ha fatto il mercato, fece arrabbiare il Bayern perché che andò a fare il mercato per il Manchester City. Non lo so, mi è sembrata una cosa, una sporcatura. La giro a Nicola Roggero, che poi saluto. Guarda, d'accordissimo con l'analisi. In effetti una spiegazione del genere, devo ancora capire la Premier, devo ancora capire il campionato inglese, già con l'esperienza di Guardiola, che vuol dire un grande passato da allenatore e prima ancora da giocatore, quindi sono sostanzialmente 30 anni che sta in questo mondo. E poi in una squadra dove bene o male è noto da 6 mesi che tu arrivi lì, dove hai cominciato a lavorare di fatto a maggio, quando hai finito la tua avventura col Bayern, quindi è 3 mesi che ci lavori, hai comunque a disposizione una disponibilità finanziaria infinita per rafforzare la squadra, come vuoi, senza che nessuno metta becco nelle tue scelte. E beh, se dopo la prima partita vinci col Sunderland, squadra che da 3 anni evita la retrocessione, con delle fughe degne di Clint Eastwood da Alcatraz, e vince soltanto per autorità 2 alla fine, ecco, trova delle altre giustificazioni, non quella che devi capire il campionato, perché il campionato era noto che era quello. Poi non è arrivato in un campionato degli UFO, è arrivato nel campionato inglese, che bene o male lui conosce. Sì, qualcuno conosce, sì. C'è la televisione, esiste, Sky, mandategli un abbonamento, mandategli una testa di Sky, ma soprattutto perché uno di quell'esperienza lì non può non sapere cosa vuol dire allenare in un campionato comunque di vertice, in questo senso non è differente dalla Spagna o dalla Germania dove l'ha allenato. In una squadra di vertice, in un campionato di vertice, non può dire che ci sono delle sensazioni nuove. Bravo, perché quelle sono più o meno dappertutto. Grazie Nicola. Grazie. Grazie a voi, un salutone. Grazie Nicola Roggero da Sky. E 800240024, ci sono diversi ascoltatori che ci mandano messaggi. Sì. Anche a Londra si lavora, poi non lamentatevi che il PIL in Italia non sale, fannulloni italici. No, ma noi italici. Siamo qui a far salire il PIL italiano. Infatti. Siamo qui a lavorare qui. Per il PIL italiano. C'è invece chi, Sandro da Isernia, relax sul letto ad ascoltarmi, riposandomi dopo aver fatto 36 buche a golf. ieri, ci ha messo 9 ore. 800240024, subito dopo questa brevissima pausa ci colleghiamo con Claude dalla provincia di Venezia che... Ah no, io ho anche una dichiarazione d'amore per l'Uturrini, eh? Ricordamelo stasera. Valentina, io vi ascolto mentre stiro e la mia dichiarazione d'amore va al verace Leo Turrini, hai capito? Ricordami di dirlo al maestro Valentina, stasera dalle 18 porteremo. Alle 20. Faremo una carrambata. Se no, mandateci i vostri WhatsApp vocali con le vostre dichiarazioni d'amore ad atleti olimpici. Può essere un bel tema per questo Ferragosto. Allora, adesso io e Giovanni Capuano, l'ascoltatore lo recuperiamo, Claude della provincia di Venezia, 800240024, e ricordo, potete vincere la grigliata di Ferragosto di Giovanni Capuano al ristorante scozzese. La bambola in grandezza naturale di Leo Turrini o un giro in moto con Roberto Ungaro. Comunque, voglio, mentre stiamo per richiamare l'ascoltatore e tra poco ci colleghiamo anche con la Spagna perché anche lì si è cominciato, voglio farvi sentire tre cose. La prima è a proposito di Conte alla vigilia di questo Monday Night in cui debutterà in Premier League. It's fantastic for example for me, no, to change the habit. In England there is the habit that before the game there is the music in the changing room, no? And it's incredible because in Italy is doesn't exist this situation. And great. And it's a new habit for me, and I'm trying to adapt. What sort of music would you choose? Discotech music, boom boom. Capito? Cioè, boom boom music. Boom boom music, nuova abitudine cui it's mi fantastic. Devo abituare. It's fantastic. Incredible. It's unbelievable. To change my habit. To change my habits. I had the habit to do grigliata at Ferragosto. But today I'm here with Valeria Bernardi and Giovanni Melchiori and Aziz Falzone. Sì. C'è un altro. Fantastic. It's fantastic, ma it's fantastic anche Gary Lineker che ha mantenuto le promesse. E insomma, ha mantenuto Ragazzi, per modo di dire. Mica, qui si potrebbe aprire. No, qui si potrebbe aprire una discussione perché lui aveva detto che si sarebbe presentato in mutande. Sì, a condurre alla BBC. Sì. Se il Leicester avesse vinto il campionato, cosa che ha fatto. Ma erano calzoncini. Se stiamo non erano a disquisire tra slip e boxer, vabbè, ognuno ha i suoi habits, no, Giovanni? Ha i suoi habits. Comunque con un gran fisico, si vede che si tiene bene anche lui con le buche da golf, la grigliata e tutto. Lo sentiamo. Here we go again, new season, new titles, new managers, new signings, but apart from that, nothing much has really changed. 7 games on the way from the opening day of the Premier League. We've gone with 2 up front in the studio, Alan Shearer and Ian Wright have it all covered. Beh, però ha avuto tutta l'estate per prepararsi il fisico a questa esibizione alla BBC in mutande. Allora, prima di andare in Spagna, Claude, provincia di Venezia, buongiorno, dica. Buongiorno, buon Ferragosto, dica. Grazie mille altrettanto. Volevo dire che è normale durante i giochi olimpici di parlare di vittorie, di medaglie, di bravure, mi raccomando, però ogni tanto si deve ricordare, secondo me, che lo sport è anche tanta etica, si dovrebbe. E volevo che si potesse parlare di questa signora olandese il cui cavallo è stato punto da un insetto, è stato tanto male, quasi è morto, è stato appena salvato, diciamo. E però la signora, quando ha visto sto cavallo, che poteva forse anche fare la gara, curato da un veterinario, ha rinunciato per non stressarlo e ha abbandonato una gara che poteva sinceramente vincere. E questo trovo che non se ne parla abbastanza, nel senso che la moralità e l'etica dello sport molto spesso passa in secondo piano accanto alle medaglie. No, ma non so se passa in secondo piano accanto alle medaglie, questa è certamente una bella storia olimpica, però ci perdoneranno nel giorno di Paltrinieri della medaglia della d'Italia Cagnotto che dice addio alle competizioni, nel giorno di Usain Bolt c'è anche questa storia, però insomma no, ma ci sono tante bellissime storie, ha ragione Claude, però ci sono grandi storie di fair play, grandi gesti. Uno ha riguardato anche Niccolò Campriani, che non la gara di ieri, quella di ieri l'ha fatta con la carabina della compagna ed era anche più normale che gliela prestasse, ma la gara precedente, siccome la sua carabina non funziona, l'ha fatta facendosi prestare l'arma da un suo ex grande avversario. E anche questa è una bella storia. Ieri abbiamo parlato molto di gesti brutti invece e ce ne sono purtroppo anche in questa Olimpiade. Però l'Olimpiade è così, insomma. È chiaro. Ci sono, intanto è fuori Gloria Hooper, 200 femminili, 23.05 nella sua batteria, si è classificata sesta. Sì, non ha corso benissimo. Filippo Maria Ricci, che piacere, come stai? Buon pomeriggio, bene. Ma soprattutto due cose. No, soprattutto come si festeggia il Ferragosto in Spagna? Che grigliata fai? Vabbè, Filippo italiano, con i bimbi, la famiglia, sta grigliando. Sto per andare a vedere una paella in realtà, perché sono tutti degli amici e non lo facciamo quasi mai a Madrid, però qua c'è un buon posto, allora oggi paella, però... Però diciamo, anch'io cambio un po' gli habits, come Gary, e sono d'accordo con Giovanni, è lì quei pantaloncini, insomma, almeno non erano dei boxer, almeno dei boxer avrebbe potuto metterli. Allora, io non vorrei fare una citazione, adesso non facciamo io non vorrei colpo fare grosso una alla citazione radio storica, dai, su, tanto ragazzi, non ci ascolta nessuno, io non vorrei fare una citazione storica, mi ricordo la Ferilli quando propose che si sarebbe spogliata e poi si presentò con il costume color carne. È una truffa. Io vi avverto che stiamo prendendo una brutta deriva, ragazzi. Io vi avverto. No, non erano underpants, cioè le mutande. Però vabbè, va. E la seconda cosa, per cambiare, se volete, no, su Campriani ieri mi sono sentito in diretta le sue dichiarazioni dopo la... trionfo, a parte quel sorriso spettacolare che aveva, no, come dire, che cosa ho combinato, ma poi che lui viene a dire, no, oggi il migliore è stato il mio rivale, il migliore dell'anno è stato un altro rivale, insomma, noi che siamo abituati a masticare tanto calcio, tante giustificazioni un po' banali, insomma, una bella ventata di ottimismo, di sportività, insomma, fa bene ogni tanto sentire qualcuno che ridendo dice no, ho avuto un po' di fortuna, il migliore là l'altro, poi chiaro, io ho fatto il mio e ho vinto, insomma, non sarebbero male queste dichiarazioni anche, no, per noi, aspetta e spera, aspetta e spera, a me ha fatto impazzire quando quel sorriso durante la gara, prima lo stavo commentando con Giovanni, quel sorriso durante la gara mi ha fatto impazzire. Ma anche l'inno, dai, bello, insomma, abbiamo bisogno noi che così il calcio ha bisogno di questo, anche un po' di drammatizzare, insomma, va bene, hai perso, l'altro ha giocato meglio, si può anche dire, no, invece sempre lì a prendersela con chissà quali motivi, insomma, questo devo dire che non so, dopo le Olimpiadi in questo sono fresche, insomma, riportano un po' sulla terra, ma poi io mi sto divertendo anche perché stiamo triturando la Spagna, Giovanni? Cioè, finalmente trituriamo la Spagna. Non vorrei mai che ci fosse qualche ascoltatore spagnolo. Sana rivalità sportiva, campanile, no? Campanile, però leggo il medagliere, insomma, noi siamo messi non male, si avvierano anche le prime previsioni. Ho tifato abbastanza per Del Potro, mettiamola così, va? Hai tifato abbastanza per Del Potro, sì. No, vabbè, dai. Non aggiungo altro, perché comunque non vorrei essere espatriato immediatamente. No, però una sana batosta alla Spagna, che ha 3 medaglie d'oro ma 5 totali, ragazzi, una sana lezione sportiva alla Spagna, insomma, a me... devo dire la verità, il compenso ieri la Francia, quell'oro della spada della Francia fastidiosissimo, che ci ha superato nel medagliere, quello ieri, ma orticaria totale, orticaria totale, orticaria totale. Senti, calcisticamente che si dice lì? Siamo alle solite, via. Il Barcellona ha cominciato, cominciato bene, ieri una bella noia, partita. Che noia. Io ci ho sperato un po', il Siviglia mi è piaciuto, il Siviglia di San Paoli ci ha provato, ha discusso, no, il possesso palla, però poi alla fine quando sono mancate le forze, quegli altri sono forti e gli hanno fatto due gol. Vediamo il Real Madrid, oggi hanno presentato Morata, tutto commosso di essere tornato al Madrid, non ci voleva tornare neanche legato, invece è qui. Oggi ha fatto quello che era commosso e vediamo come va, cominciamo questo fine settimana e questo sono uno strano Real Madrid che adesso dovrebbe arrivargli la squalifica per, no, per due campionati, cioè infatti due, è il grande tema di quest'estate, no? Cioè il grande due turni di mercato e non ha preso nessuno e non ha fatto nulla. Voglio dire, la squadra è forte, non si discute, non è che puoi migliorarla molto questa rosa, sinceramente adesso. Però hanno ripreso Morata, quindi secondo me poi è un ottimo giocatore e gli darà sicuramente una grande mano davanti. Per il resto, no, è abbastanza strano. No, questo è uno dei temi. Vedere anche, ho parlato con Griezmann l'altro giorno, ho sentito molto battagliero. L'Atletico veramente vuole continuare a dar fastidio. Vediamo un po'. Questo è un po' il. Diciamo la Spagna è sempre uguale, poi chiaro siamo un po' oscurati, tutti questi grandi allenatori sono arrivati in Premier League, League è partita prima, certo, però vediamo poi in Europa dove poi si giocherà, dove si gioca poi la partita vera, ormai l'Inghilterra ancora per quest'anno farà fatica, poi vedremo l'anno prossimo. Ragazzi, per chiudere, domandone che ci propone un ascoltatore, quest'estate chi è più grande tra Phelps, Bolt, Campriani e Cristiano Ronaldo? chi prendi? Campriani, no, dai, Campriani per il sorriso. Io, perché siamo italiani e siamo in clima olimpico. Io mi prendo Phelps perché sono banale. Sì, dai, è ovvio. Giovanni dai, Capuano, ma io leggo Gazzetta dello Sport di oggi, pagina 19, dove c'è scritto che Michael Phelps da solo, con le sue medaglie, nel medagliere all time delle Olimpiadi si piazza al 38esimo posto, sì. Mi sembra che davanti almeno all'Etiopia, all'Argentina, all'Austria, all'Iran, alla Giamaica, al Messico, all'India, al Marocco, alla Lituania, cioè di cosa stiamo parlando? No, poi, questo è un grande l'altro giorno ho controllato, ne aveva 21, aveva 21 ori il Brasile, totalmente 23. Sì. No, questo è il grande hashtag, no? Se Phelps fosse un paese, è questo, no? If Phelps was a country, è spettacolare questa cosa del medagliere. Io sì, l'ho cavalcata un po' perché è veramente una, ti dà la dimensione di un extraterrestre, cioè appunto, è come se fosse un paese. Ci sono 38esimo, in quanti sono i paesi? 200 più o meno che partecipano alle Olimpiadi, più o meno. Cioè, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Di Cristiano Ronaldo, per favore. No, che per tu, favore, con tutto il rispetto. Filippo, grazie, sentiamo presto. A voi, ciao. Sì, ciao Filippo. Qua. Paolo, buongiorno. Paolo dalla provincia di Udine. Abbiamo due Paolo. Abbiamo due Paolo. Uno è ovviamente Paolo. Lo salutiamo perché uno è Paolo Condò, uno è Paolo Condò. È sceso dalla bici apposta per noi. Si sta preparando per l'Omnium di questa sera. Sei andato a fare un giro in bicicletta con i bimbi? Bravo, esatto. Ferragosto con i tuoi. Ferragosto con i tuoi. È la prova di inseguimento. Infatti io sono qui con Capuano. Ferragosto con i tuoi, sono qui con Capuano. Che si è fatto, dicevo prima, la grigliata di Ferragosto in un noto ristorante scozzese qua sotto la radio. Ti lascio immaginare qual è. No, ma scusa, state parlando di Friuli e improvvisamente stiamo... Di Friuli perché c'è un tuo omonimo, Paolo, dalla provincia di Udine. Ah, benissimo. Lo sentiamo. Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buona giornata, buon Ferragosto a tutti. Cosa si mangia in Friuli per Ferragosto? Ah, beh, di solito la classica grigliata con parenti, amici e conoscenti, con dell'ottimo vino del Collio che l'accompagna tranquillamente. E poi si fa la solita passeggiatina. La mia domanda a proposito di passeggiatina, la mia domanda era, mi è venuta una curiosità. Ha vinto 3 volte la medaglia d'oro nei 100 metri. In tutti questi anni, quanti controlli antidoping ha avuto questo bravissimo ragazzo? Ne ha un po'. Qualcuno li vanno a cercare c'è un pezzettino di unghia nelle urine. Ma anche Usain Bolt. Non ne diamo notizia, però è estremamente monitorato. Non pensi che sia uno, no, guarda, Paolo, Usain Bolt, uno che la fa franca. Usain Bolt, vado a memoria, mi risulta uscito pulito da quella discussione che si aprì a proposito dell'antidoping in Giamaica. C'è stato un periodo in cui si è molto discusso sulla serietà dell'antidoping per i velocisti giamaicani, ma la figura di Bolt è sempre rimasta fuori da questa polemica, quindi noi non possiamo gettare schizzi di fango su un campione come Bolt, così, pensando che possa aver fatto avere una carriera senza subire controlli antidoping. Ne ha subiti tantissimi. E ciò non toglie che poi restiamo, perché era quello il riferimento, insomma, della nostra opinione sul caso Svazer. Però oggi Usain Bolt è l'immagine bella dell'atletica, teniamocela e senza avanzare sospetti che non hanno fondamento in questo momento. Paolo Condò, campionati, no, volevo aggiungermi a Giovanni, ricordando che altri grandi dell'atletica dello sprint giamaicano sono stati presi dall'antidoping, certo. Quindi non è da dire che, ecco, in certi paesi viene fatto in un modo e in certi altri no, perché altrimenti mi pare che sia Powell che Becker siano finiti nelle grinfie dell'antidoping. Usain Bolt rischia di perdere la medaglia della staffetta di Pechino, ma non per colpa sua, ma per colpa degli altri. Certo, senza dimenticare Justin Gatlin, che ha avuto il suo pregresso, i suoi precedenti, eccetera, eccetera, e provati, squalifiche e tutto quello che ne è derivato. Inutile buttare del fango su un'icona dei nostri tempi come Usain Bolt. Poi, se volete, la mano sul fuoco non mettetela, non sto dicendo questo. No, certo, ma la mano sul fuoco non la mettiamo per nessuno. Per nessuno, per nessuno. Da tempo. Ci siamo scottati troppe volte, non abbiamo più le dita. Siamo tutti molto scevole ormai per quanto riguarda questo, però d'altra parte mi sembra che Usain Bolt sia, le leve di Usain Bolt date anche dalla sua altezza, io l'ho sempre accostato molto, non c'entrano niente, però l'ho accostato a Marco Van Basten, che è stato il primo centravanti, poi è venuto Ibrahimovic, è stato il primo meraviglioso centravanti che non era basso e tracagnotto, ma era alto, difatti lo chiamavamo il cigno, no? Sì. Ecco, anche Usain Bolt non è quella massa compressa di muscoli pronta a scattare, ma come era stato Carl Lewis, è un atleta meraviglioso e che ha anche un'apertura di gambe superiore agli altri. Rivoluzionario, semplicemente certo. Uno di quegli atleti come Phelps, uno di quegli atleti che hanno rivoluzionato lo sport e che sono diventati delle icone. Paolo, anche tu... la madre natura di qualcosa di spaziale. Sì, madre natura con loro è stata particolarmente generosa. Hai anche tu l'acquolina in bocca al pensiero della prossima Champions League? Beh, naturalmente sì, perché ogni anno tante si cose rinnova, ogni anno si rinnova questo appuntamento collettivo bellissimo, che ti devo dire però, mai come quest'anno ha un anticipo nella Premier. Perché in effetti, se io devo andare a prendere, parliamo di allenatori soprattutto, come giocatori naturalmente, Messi, Ronaldo e tutti quelli che giocano in Spagna soprattutto, ma se tu pensi a quali sono gli allenatori ultra top che mancano alla Premier quest'anno, a me vengono in mente Ancelotti, Allegri, direi che merita ormai questa patente, e Simeone. Sì, poi così. Per il resto sono andate a finire tutti lì, non so se avete visto ieri Arsenal-Liverpool, sì, Wenger contro Klopp, stavamo anche dicendo che forse Wenger e Arsenal sarebbe ora anche di consumare questo divorzio, non si amano più, dai Paolo. Sarei curioso di vedere uno dei tre allenatori che ho citato prima sulla panchina dell'Arsenal, e comunque la rosa è ricchissima, sulla panchina dell'Arsenal che cosa combinerebbe. Comunque sì, chiaro, non c'è dubbio che la Champions rimane il torneo top, e io insomma quest'anno ti confesso che ho delle buone speranze di avere tre italiane in Champions, cioè confido molto nella Roma contro il Porto. Speriamo. Sì. Io vorrei che Giovanni Capuano ripetesse il concetto di prima su Guardiola, perché vorrei un commento a Paolo Condò. Mi sembra un argomento molto interessante. Che ho trovato sorprendente, vista la difficoltà della prima giornata, a battere il Sunderland, che insomma notoriamente è una squadra che sta 3-4 piani sotto il Manchester City, ma sotto qualsiasi grande del campionato di Premier League, che Guardiola abbia usato come argomento dialettico il fatto di dover conoscere ancora il campionato. Lui, che uno, a parte che da 6 mesi sa che lavorerà per il City, ha già fatto, già da dicembre lavorava per il City, faceva il mercato ed è comunque un personaggio, l'abbiamo visto anche in Germania, abituato a presentarsi già pronto, dalla lingua al più piccolo dettaglio. L'ho trovata una spiegazione, non il fatto che abbia vinto all'88esimo su autorete, quello per carità è il calcio, può capitare, però l'ho trovata una spiegazione un po' debole. No, c'è una cosa che Guardiola affronta per la prima volta nella sua carriera, e cioè un campionato nel quale perderà molti punti. Perché se tu pensi a che cosa sono stati i campionati spagnoli, che erano sostanzialmente, non c'era ancora l'Atletico di Simeone, e quindi era una corsa a due dove ogni pareggio era un dramma, perché perdevi dei punti che chissà mai se l'avversario li avrebbe persi, e a maggior ragione col Bayern, che è un'altra formazione che di solito vince l'80%, egemone, delle partite che disputa. Questa volta, proprio per la quantità di grandi formazioni che ci sono in Premier e per l'abitudine alla sorpresa, cioè la squadra quindicesima in classifica che batte la prima, che è tutt'altro che raro in Premier, ecco, in questo senso io credo che Guardiola debba ancora abituarsi, e ci vorrà parecchio tempo. Il Guardiola è abituato a un calcio nel quale le sue squadre dominano. Che sono composte da giocatori fantastici, sì, e che hanno al massimo un competitore all'interno del campionato. Dominano. Stavolta lui avrà come competitore, io credo, almeno 4 squadre. Sì, ma quindi ci prepariamo ad un Guardiola all'italiana, pronto ad accampare scuse, pronto a cercare appunto l'alibi, come diceva Giovanni, Gio. Ma no, ma io non dico questo, mi è sembrata un po' così come analisi. No, volevo tornare invece sulla cosa della Champions anticipata dalla Premier. La cosa curiosa è che due degli allenatori, uno Klopp, l'altro è Mourinho, la Champions vera non la faranno. E ho l'impressione che ci sia almeno un intruso, che a noi fa piacere, però ho l'impressione che Leicester sia un po' un intruso nella prossima Champions. Beh, è brutto però parlare di intruso. No, intruso in senso sportivo, senso che si merita di farsi un giro tra i grandissimi. Però senza grandissime ambizioni, tu dici, Paolo? No, beh, io, allora, a parte il fatto che io credo che quest'anno il Leicester darà il suo meglio in Champions più che in Premier, nel senso che la grande avventura prosegue, se prosegue, può proseguire in Europa più facilmente che in Inghilterra, ma io io sposo i discorsi di Giovanni cambiando con degli emendamenti, cambiando dei vocaboli, e cioè parlo di spiegazioni anziché alibi, quando Guardiola dice per quale motivo il Manchester City non è andato benissimo nella sua prima uscita, e cioè me lo spiega dicendo mi devo ancora abituare, devo ancora conoscere bene questo campionato, cioè comunque un'autocritica. Perché uno che dice abbiamo avuto sfiga, l'arbitro ha fatto questo, dice è colpa mia, mi devo ancora abituare a questo campionato. E dall'altra parte, più che intruso, parlerei di sorpresa, perché naturalmente è stata una grande sorpresa, però se ne è meritato nella maniera che sappiamo. Ma chiaro. La partecipazione, e ti devo dire, ecco, la sua fortuna è questo nuovo sistema che c'è dall'anno scorso di teste di serie, perché altrimenti l'Ester sarebbe finito nella quarta urna e sarebbe stato un massacro il sorteggio. Invece perché ti dico che io confido in una Champions che non finisca, non si esaurisca nella fase a gruppi, come probabilmente tutti pensano? Perché allora ovviamente non trova le altre inglesi, non trova il Real Madrid e il Barcellona, Real campione uscente, Barcellona campione di Spagna, non trova la Juventus, non trova il Bayern, non trova il Paris Saint-Germain, che sono nella sua stessa urna. E quindi io penso e spero che riuscirà a fare strada, a fare un po' di strada. A fare perlomeno, perché per me, se l'Ester passasse la fase, A gironi, sarebbe già un successo. Sarebbe un secondo capitolo meraviglioso della storia stupenda. Però diciamo la verità, Sarri, e noi ci auguriamo Spalletti, quel giorno lì a Nyon pregheranno di pescare l'Ester. Questo è verissimo. Il Leicester è il CSKA a Mosca, direi, della prima urna, certamente. Grazie Paolo, buon Ferragosto. Buon Ferragosto a voi, ciao ragazzi. Un abbraccio forte, Paolo Condò. È sempre un enorme piacere parlare con lui. Alessandro da Bergamo, e poi aggiorniamo la seduta questa sera alle 18, dalle 18 alle 20 per tutti i convocati alle Olimpiadi. Alessandro, dica. Sì, grazie per avermi convocato. Io volevo parlare delle finali di questa notte di atletica. Sì. E dire che Bolt è sicuramente un soggetto rivoluzionario nell'atletica, come avete detto voi. Ma questo Van Niekerk, che abbatte un record che durava da anni, una decina d'anni almeno, 20 anni forse. È stato un grande protagonista. Grandissimo. L'unico atleta in grado di fare sotto i 10 nei 100. Sotto i 20 nei 200 e quasi sotto i 43. Sì, sì, ma siamo tutti d'accordo, ne parlavo anche prima con Nicola Roggero, sul fatto che l'impresa vera della notte sia stata questa, al di là della medaglia d'oro di Usain Bolt. Giovanni, ci vediamo stasera. Ci vediamo stasera e avremo grandi ospiti, no, ma non sto scherzando, avremo anche una grande campionessa friulana che è appena rientrata da Rio de Janeiro, a proposito di friulani. A proposito di friulani, e aspettiamo il racconto delle vostre grigliate, anche via WhatsApp, 349-238-6666. Intanto, grazie a Giovanni Melchiorre, Alvise Falzoni in redazione, Valeria Bernardi in regia, e ci sentiamo più tardi. Sono andato a cercare notizie, ma oggi non c'è niente. Ci vediamo stasera.